Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, ormai siamo perfino stanchi di ricordarcelo, ma insomma viviamo in tempi di crisi, di incertezza, anzi in tempi strani, come il titolo del libro che adesso vi presento, il libro di Ilvo Diamanti, un grande sociologo, pubblicato da Feltrinelli, 156 pagine, 14 euro. Il libro è sottotitolato Un nuovo sillabario. E infatti abbiamo qui una quarantina di voci per capire la società italiana contemporanea, da autobus a zone geopolitiche. Sono tutti dei brevi capitoli, spesso testimonianze di terzi, più spesso riflessioni dell'autore su questa situazione di sospensione, per così dire, nella quale ci troviamo tutti, che sembra essersi impossessata del paese. Una sospensione nella quale gravitano soprattutto i giovani, che vedono crollate molte certezze alle quali era legato il percorso di vita dei genitori. Ma cerchiamo di orientarci in questa mappa dell'incertezza con l'autore. Buongiorno a Ilvo Diamanti. Buongiorno, buongiorno. Ilvo Diamanti, allora, questo suo libro si intitola Tempi strani, dominati dall'incertezza. Ecco, le ultimissime tendenze politiche e anche i risultati elettorali in Sicilia radicalmente aggiungono altre incertezze, mi sembra, a questo quadro. Sì, l'incertezza a cui faccio riferimento è globale, non è solo politica, perché appunto quello è una sorta di diario della mia vita quotidiana, che è fatta di osservazioni generali, quindi sulla politica, ma anche più specifiche nella mia vita quotidiana. Le elezioni siciliane mi danno la conferma di quello che vedo, cioè tempi strani vuol dire diversi rispetto alle regole che adottiamo normalmente per guardarci attorno e per misurare i fatti, non prevedibili, mettiamola così, ecco. Per cui non do giudizi, al di là che mi piacciano o meno, sono tempi di cambiamento. Quando i tempi sono di cambiamento, parlo anche della mia esistenza, non solo della politica, sono tempi strani nei quali, come dire, il vantaggio è che si può cambiare, cioè visto che cambiano, noi possiamo anche cambiarli. Ecco, di questo cambiamento, paradossalmente, lei vede come due facce dello stesso fenomeno, due personaggi apparentemente antitetici, cioè Grillo e Monti. In che senso sono due facce di una situazione analoga? Guardi, noi diamo per scontato che il sistema nel quale viviamo, noi come tutti gli occidentali, sia la democrazia. È così, certo, però non è la democrazia tout court, è la democrazia rappresentativa, cioè quel sistema attraverso il quale i cittadini governano attraverso i loro rappresentanti. Quindi la democrazia rappresentativa è pur sempre una tensione tra la partecipazione, la voglia di, come dire, intervento popolare, decisione popolare, e governo, e quindi qualità di chi governa. Nel momento in cui queste due dimensioni, queste due spinte si contraddicono, allora noi entriamo in una fase appunto di cambiamento, e noi abbiamo due facce che sono molto diverse, ma in realtà fanno parte della stessa medaglia. Cioè, da un lato noi abbiamo Monti, che esprime la domanda di un governo autorevole, e quando intendo autorevole intendo dire rispettato, dignitoso e che merita il rispetto dei cittadini, ma dall'altra abbiamo anche, come dire, la tensione che esprime la domanda di partecipazione diretta, e in una certa misura, anzi sicuramente, Grillo esprime questo, magari in modo estremo, ma la sua, tra virgolette, ideologia è la possibilità della democrazia diretta ai tempi della rete. Ecco che quindi entrambe mostrano i limiti della democrazia rappresentativa, la difficoltà di avere un governo che i cittadini rispettano e riconoscono perché è autorevole, ma dall'altra parte anche una partecipazione che conta, una partecipazione che si senta rilevante. E quando si scende sul vaffa o si va a cercare il tecnico non eletto, allora noi ci troviamo in tempi di democrazia diretta, che può anche scadere nella demagogia, e dall'altra parte non nella democrazia rappresentativa ma nella aristocrazia. Protagonisti di queste sue riflessioni sono i giovani, che ricorrono spesso, lei ne sottolinea la condizione di incertezza, il precariato, le prospettive lavorative difficili, però a un certo punto racconta la storia di un 35enne, mi pare, che alla fine delle sue riflessioni si dichiara felice. Ecco, c'è contraddizione in tutto ciò? No, nel senso che il 35enne purtroppo è costretto a definirsi giovane ancora a 35 anni ed è felice, come buona parte degli italiani si definiscono, nonostante tutto. Perché nonostante tutto? Perché, come dire, si abituano e si adeguano alla loro quotidianità, alle reti di relazioni quotidiane, stanno bene nel loro piccolo, nella famiglia, nonostante ciò che avviene nel mondo, nonostante ciò che avviene intorno a loro. Paradossalmente questa felicità è un sintomo di precarietà profonda. Sei felice nonostante tutto e ti adegui perché, come dire, il mondo intorno incombe e tu ti nascondi. E questi giovani vengono da lei apostrofati con due messaggi assolutamente contrapposti, immagino paradossalmente. Non studiate e studiate, i titoli di due capitoli. Lei a quale crede? Immagino al secondo. Io, entrambi i messaggi sono coerenti, il non studiate è provocatorio, il non studiate è rivolto a una tendenza generale a considerare la scuola un di più dal punto di vista degli e la ricerca altrettanto, dal punto di vista appunto degli investimenti, delle risorse impiegate, ma anche direi del rispetto, scarso rispetto di cui oggi dispongono, magari anche per colpa propria, insegnanti, però anche il non studiate si conclude con una nota evidentemente polemica, cioè perché oggi è meglio furbi che colti. Ecco, lo studiate parte proprio da dove finisce il precedente, cioè meglio furbi che colti, no, io dico a tutti e continuo a dirlo, meglio colti che furbi, meglio precari oggi che schiavi e servi tutta la vita. E lei è stato uno dei primi e più acuti studiosi del fenomeno della Lega, quindi di un fenomeno politico molto legato al territorio. In questo libro mi sembra che insiste sul fatto che la territorializzazione anche della politica conta meno in questi anni strani. Certo, anche le cose di cui abbiamo parlato adesso lo sottolineano, il peso di una partecipazione che non avviene più mediante il territorio, ma mediante la rete, di un governo che non è fondato sul decentramento o sul federalismo, ma sulla tecnicalità, sulle competenze e che deve molto a ciò che avviene all'esterno, quindi alla globalizzazione, che vede quindi il territorio come una variabile dipendente. In fondo, ciò a cui assistiamo in questo periodo, sulla riduzione degli enti locali, no? Come numero e come poteri, nel ridimensionamento della Lega, direi che riflette esattamente questa tendenza. Allo stesso tempo io non riesco a non credere, a non pensare, io continuo ad essere convinto che soprattutto un paese come il nostro è fatto di differenze, tra virgolette, territoriali che sono risorse e ricchezze e che noi senza i poteri locali semplicemente non abbiamo stato. Grazie a Ilvo Diamanti, autore di Tempi Strani. Buona domenica. Grazie anche a voi e buona domenica a tutti. Una lettura diversa della società italiana troviamo nel libro di altri due sociologi, Vincenzo Cesario, che è un maestro di questa disciplina, e uno studioso più giovane, Italo Vaccarini. Il libro si intitola L'era del narcisismo, è pubblicato da Franco Angeli, 176 pagine, 23 euro. Il libro dei due autori è un'analisi che completa con taglio più scientifico l'analisi di Diamanti, perché si parte anche qui dalla constatazione della condizione di crisi, una crisi di identità, la chiamano gli autori, che getta le società occidentali nella sfiducia e nella paura del futuro. D'altra parte, osservano gli autori, gran parte della cultura veicolata dai mass media fa di tutto per dissimulare tale crisi di identità, spingendosi addirittura a individuare nell'Occidente contemporaneo la terra promessa per l'affermazione della soggettività. Insomma, sfiducia e senso di autosufficienza, impotenza e onnipotenza. Allora, come spiegare questa apparente contraddizione? Secondo il libro, questa crisi è viziata appunto da questo paradosso. Tanto più ci sentiamo collettivamente in crisi, tanto maggiore è la paura o molteplici le paure che sono generate da questa crisi, tanto più sposiamo un'immagine euforica e trionfalista dell'Occidente contemporaneo, come Avanguardia Storica scrivono del processo di individualizzazione della vita e delle scelte e come movimento di liberazione dalla paura, dai tabù. Insomma, ci sentiamo sempre più liberi da qualunque vincolo, anche morale, e ci troviamo sempre più spaesati. Per spiegare questo paradosso, gli autori fanno ricorso alla metafora del Narciso, di qua il titolo, la figura mitologica che si era innamorato della propria immagine. Quello di Cesario Vaccarini è un Narciso particolare, un Narciso minimalista, ossia un Narciso che vede la persona chiusa nella propria autoreferenzialità, privandola di conseguenza della capacità di costruire relazioni fondate sull'autentico riconoscimento di altro e di pensare e agire in ottica progettuale. Insomma, un Narciso che si chiude in se stesso e non sa pensare in grande. E il libro ci offre un'interessante analisi di questa patologia, della sua diffusione, delle sue manifestazioni, per mettere in luce come questa atomizzazione esasperata possa dare luogo a dei fenomeni di sempre maggiore ingovernabilità e incertezza. E infatti il libro si conclude scrivendo che l'esasperato egocentrismo, l'elevata autoreferenzialità, l'ossessivo concentrarsi sulla propria persona non danno spazio all'empatia, poiché il narcisista non è in grado di assumere il punto di vista altrui, di provare ciò che sentono gli altri cercando di mettersi al loro posto. Questo egocentrismo ha insita una visione idealizzata del sé che porta a subordinare la vita affettiva al culto della propria immagine, e questi narcisi vedono anche la morale in termini del tutto relativi, assumendo quindi dei modelli di comportamento a seconda della situazione in cui si vengono a trovare, della personale convenienza. Insomma, una patologia che può fare molti mali alla società, per cui narcisi di queste trasmissioni riflettete. E a questo punto la linea alle informazioni sul traffico. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dopo la sociologia parliamo di economia con uno dei giganti del pensiero economico del Novecento, e cioè John Maynard Keynes, al quale si è rifatta la politica degli anni 50 e 60, poi Keynes è stato abbandonato a favore delle tesi più favorevoli al mercato e adesso torna di moda, e lo ritroviamo in un prezioso e gradevole libretto che raccoglie due suoi scritti, anzi due memorie che Keynes aveva preparato per leggerle a una ristretta cerchia di amici. Il libro si intitola Le mie prime convinzioni, pubblicato da Adelphi, 144 pagine, 12 euro, ed è tradotto da Pierangelo da Crema e Brunella Bruno. Queste due relazioni dunque furono lette agli amici il 2 febbraio del 1921 la prima e il 9 settembre del 1938 la seconda. Gli amici naturalmente erano quelli che si rifacevano al mitico circolo di Bloomsbury, che poi diventò il Memoir Club. Le due memorie riguardano la prima la partecipazione di Keynes alla trattative di Parigi successive alla sconfitta tedesca della Prima Guerra Mondiale, una partecipazione che poi diede modo a Keynes di scrivere il libro che gli diede la fama e il successo, cioè Le conseguenze economiche della pace. La seconda memoria è invece dedicata alle sue prime convinzioni, cioè al clima culturale nel quale Keynes vive. Nella prima, intitolata Melchior, un nemico sconfitto, Keynes spiega gli errori degli alleati che, come è noto nelle tesi di Keynes, fecero di tutto per creare le condizioni perché la Germania non potesse pagare sostanzialmente i danni di guerra, e quindi crearono le condizioni per la conflagrazione della Seconda Guerra Mondiale. Qui Keynes ricorda la sua vicenda, trattò nascostamente con l'emissario tedesco per favorire il fatto che la Germania potesse approvvigionarsi dei viveri per sfamare i propri cittadini, cosa che le veniva difficile perché soprattutto i francesi, nella miopia che allora dimostrarono, non volevano che i tedeschi usassero l'oro che ancora avevano a disposizione, perché quell'oro doveva essere dato agli alleati. E Keynes cerca appunto di superare questa impasse trattando segretamente con questo emissario tedesco che qui ci descrive. La seconda memoria invece si riferisce appunto al clima intellettuale di Cambridge. Keynes faceva parte della più segreta e importante ed esclusiva società che pullulavano allora nelle università, la Cambridge Conversazione Society, la parola era in italiano, o Società degli Apostoli, perché ne facevano parte soltanto 12 persone, 12 studenti, che naturalmente erano i più brillanti dell'università e fra i quali naturalmente c'era Keynes. E appunto ci spiega in queste righe quali fossero le convinzioni anche intellettuali alle quali questi ragazzi, questi geni, si stavano rifacendo. Sentiamo qui le righe in cui Keynes ci sintetizza appunto questa impostazione. Ormai le linee del fronte fra Keynes e Hayek erano tracciate. Keynes credeva che fosse dovere del governo fare il possibile per facilitare l'esistenza dei cittadini, in particolare dei disoccupati. Hayek riteneva inutile che i governi interferissero con certe forze a modo loro immutabili come gli elementi in natura. Keynes ripudiava il liberismo in quanto inappropriata applicazione del darwinismo alle attività economiche, aggiungendo che una migliore comprensione del funzionamento dell'economia avrebbe permesso ai governi responsabili di prendere decisioni in grado di appianare i peggiori effetti della parte bassa del ciclo economico. Hayek alla fine arrivò alla conclusione che era difficile, se non impossibile, sapere con esattezza come funzionava un'economia e che i tentativi di mettere a punto una politica economica basata su prove del genere rischiavano di fare più male che bene, come ai tempi in cui i barbieri fungevano anche da primordiali chirurghi. Keynes riteneva che l'uomo fosse padrone del proprio destino, mentre Hayek, con una certa riluttanza, credeva che l'uomo fosse destinato a vivere secondo le leggi naturali dell'economia e tutte le altre leggi di natura. Pertanto i due erano giunti a rappresentare due idee opposte della vita e del governo. Keynes adottava la visione ottimistica secondo cui la vita non sarebbe difficile come invece è, se soltanto chi detiene il potere prendesse le decisioni giuste, mentre Hayek sottoscriveva l'idea pessimistica secondo cui c'erano rigidi limiti allo sforzo umano e i tentativi di alterare le leggi di natura, per quanto ammantati di buone intenzioni, erano destinati a portare, nel migliore dei casi, a conseguenze imprevedibili. Dicevo prima dell'alterna fortuna di Keynes, che ha trovato poi negli anni 80 e 90 come grande avversario un suo collega, e cioè Friedrich August von Hayek. Il mondo è diventato più liberista in quegli anni e si è rifatto ad Hayek, grande apostolo invece del mercato e nemico dello statalismo. E un confronto tra questi due giganti del pensiero economico, che hanno forgiato in qualche modo il pensiero economico del Novecento, troviamo nel libro di Nicholas Wapshot, che è un giornalista inglese, che si intitola appunto Keynes o Hayek, lo scontro che ha definito l'economia moderna, pubblicato da Feltrinelli, 334 pagine, 23 euro, ed è tradotto da Giancarlo Carlotti. Due giganti dell'economia, dunque, che hanno dominato e continuano a dominare il dibattito economico, e si parte da un episodio insolito, e cioè con loro due, Keynes e Hayek, che una notte trascorrono la nottata sul tetto di uno dei più augusti collegi di Cambridge, il King's College. Siamo nel 1942, e fanno i turni per controllare che le bombe incendiarie non colpiscano il tetto del collegio, nel qual caso sarebbero dovuti intervenire con un badile per buttare via le stesse bombe. È una immagine simbolica di una loro temporanea collaborazione, poi sarebbe stato incendiario invece lo scontro che ebbero l'uno contro l'altro nel solco delle rispettive convinzioni. Hayek comincia la propria carriera scientifica da posizioni di sinistra, lui si sente un laburista moderato, che in sé è un liberale, e di grande ammirazione per l'opera che aveva dato appunto la fama all'economista inglese, quello che vi ho citato prima sulle conseguenze economiche della pace. Poi invece Hayek, sotto l'influsso di Mises, abbandona il socialismo, diventa un esponente importante della scuola austriaca e si mette ben presto in contrapposizione con l'economista britannico lungo linee che aveva già delineato negli anni 30 e che Wapshot così riassume. Ormai le linee del fronte fra Keynes e Hayek erano tracciate. Keynes credeva che fosse dovere del governo fare il possibile per facilitare l'esistenza dei cittadini, in particolare dei disoccupati. Hayek riteneva inutile che i governi interferissero con certe forze a modo loro immutabili come gli elementi in natura. Keynes ripudiava il liberismo in quanto inappropriata applicazione del darwinismo alle attività economiche, aggiungendo che una migliore comprensione del funzionamento dell'economia avrebbe permesso ai governi responsabili di prendere decisioni in grado di appianare i peggiori effetti della parte bassa del ciclo economico. Hayek alla fine arrivò alla conclusione che era difficile, se non impossibile, sapere con esattezza come funzionava un'economia e che i tentativi di mettere a punto una politica economica basata su prove del genere rischiavano di fare più male che bene, come ai tempi in cui i barbieri fungevano anche da primordiali chirurghi. Keynes riteneva che l'uomo fosse padrone del proprio destino, mentre Hayek, con una certa riluttanza, credeva che l'uomo fosse destinato a vivere secondo le leggi naturali dell'economia e tutte le altre leggi di natura. Pertanto i due erano giunti a rappresentare due idee opposte della vita e del governo. Keynes adottava la visione ottimistica secondo cui la vita non sarebbe difficile come invece è, se soltanto chi detiene il potere prendesse le decisioni giuste, mentre Hayek sottoscriveva l'idea pessimistica secondo cui c'erano rigidi limiti allo sforzo umano e i tentativi di alterare le leggi di natura, per quanto ammantati di buone intenzioni, erano destinati a portare, nel migliore dei casi, a conseguenze imprevedibili. E a questo punto... il confettino. Ai ragazzi appassionati di primati, non nel senso delle scimmie, segnalo l'Enciclopedia dei Record, pubblicato da Editoriale Scienza, 96 pagine, 12,90 €, dove troverete, come recita la copertina, i record più sorprendenti e le notizie più bizzarre. Il testo è di Delphine Greenberg, ci sono varie illustrazioni ed è tradotto da Hélène Stavro, un libro per appassionare e incuriosire, con tantissimi riferimenti alla geografia, alla scienza, allo sport, ma anche alla vita di ogni giorno. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.